jamana don bela jeli bela fia ame toma. Adama Yalomba, 16:51, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. E ancora dal Mali un gruppo storico, un'orchestra regionale, quella di Segou, che è guidata dal trombettista Amadou Ba e che è stata una delle orchestre regionali, diciamo, che è stata la più importante perché ha vinto tantissimi concorsi, quindi è diventata, perché in Mali c'era questa tradizione di fare dei concorsi fra le orchestre regionali, insomma la musica era un aspetto della cultura molto importante che veniva sostenuto. I Super Biton de Segou, e allora 1980 vi voglio far ascoltare questo brano che si chiama Sisi Ni. Della musica Bambara, e Segou è stata appunto la capitale dell'impero Bambara. Robert Bitton de Segù, 1980, il brano è Sissigny e voi siete all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. E allora si sono fatte quasi le 17 ed è passata la prima mezz'ora per questo sabato. Rimaniamo ancora in Mali. Dicevo che il governo del Mali aveva fin dagli anni 60 sponsorizzato gli eventi culturali e i gruppi, e uno di questi gruppi era quello che suonava al buffet della stazione di Bamako, tant'è che questo gruppo si chiamava la Super Rail Band di Bamako, che è stata un gruppo che negli anni 70, diciamo così, ha veramente spopolato, attraverso il quale poi sono passati tantissimi musicisti come Salif Keita, ed è stata diciamo la Kante Manfilà, Jelima di Tunkara, insomma tutti nomi veramente monumentali della musica africana. E allora, della Super Rail Band di Bamako, dall'album Congo Sigi, vi voglio far ascoltare questo brano che si chiama Pirate. Allora, questo brano Pirates, che è dedicato appunto al problema delle cassette pirata, che nel mercato musicale africano, insomma, per molti artisti sono effettivamente un problema. Uno stile, questo più vicino, diciamo così, allo stile guineiano delle chitarre del genere, diciamo così, della tradizione musicale mande. E quindi andiamo ancora avanti. 17.04 Radio Africa, lui è Salif Keita, un monumento della musica africana in generale, in particolare del Mali, dal suo album Bemba, un album dedicato a Sundiata Keita, che è stato proprio il fondatore dell'impero mandingo. E allora ci ascoltiamo questo brano, Calculer. Si le quieres o si le quieres o E lui era Salif Keita, il brano Calculer, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Allora un Salif Keita un po' inedito, con uno stile molto, diciamo così, vivace, anche se abbiamo potuto apprezzare le sue capacità vocali. E quindi diciamo che dal Mali ci possiamo spostare verso un artista che proviene dal Gabon. Lui è Pierre Akendegué, è un intellettuale, nonché oltre che essere un musicista, uno studioso dei fatti dell'Africa. Ebbene, lui ha fatto nel 2006 un album dedicato a Gorée è un luogo simbolo, perché è il luogo da dove in Senegal partivano i velieri pieni di schiavi per le Americhe. E lui stesso dice che l'Europa ha organizzato il commercio degli schiavi e i re africani e i capi africani li hanno sostenuti, sono stati complici, un crimine contro l'umanità che non deve essere dimenticato e che implica uno sforzo di ricordo e di vigilanza. E Gorée è proprio un luogo simbolo di questo vero e proprio sterminio di massa che è stata la tratta degli schiavi. E il brano che vi voglio far ascoltare è Tutti i nostri mali, insomma un brano che parla dei mali dell'Africa, ma anche della speranza per un'Africa diversa. E lui si chiama Pierre Akendegué. Yeah. anyalate makono badala ke vidi makono Kefimba, danta ba mi tinyuma le to kefimba. Kumanguru la mi tinyuma le to kefimba. Kabola kuru kala mi tinyuma le to kefimba. Te viene dalla Guinea, dal suo album Dambola. Il brano che ci siamo ascoltati è Super Kefimba. 17:17 per questo sabato, Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Ce ne ritorniamo in Mali. Loro sono un trio che si chiamano Smod, che hanno un trio che fa hip hop, che sono stati prodotti da Manu Chao, e allora ci ascoltiamo la quinta traccia, Ambola. Di bade nyaye anga tria jara ambe jamu kele ambe togo kele ambe be jam suple na kasra ma da shalla flaje kona kati kasra nege tambolo mun kati kobo li kona shole sur be ka monte 5 kilo water bu be ben ale sal kona para ku sek su bala la fiesta continue la fiesta continue DJ Samdo usko dos kai mani chao ambola DJ Samdo usko dos kai mani chao ambola DJ Samdo, usko dos kalmani chao, ambola. Blanc et noir, le regard sur les pouvoirs. Arrivé à ce stade, oublieront l'air de voir. Militants et sympathisants resteront dans le noir. Hip hop nous amène vers le chemin de la clarté. Vérité en tout genre, c'est ça qu'on veut viser. Consacrer du temps pour avoir quelque chose de bien. Sampler et mixer pour être apprécié. Chanter et rapper pour avoir du talent. passer à la radio, diffuser à la télé. Ce n'est pas le système que nous on veut viser. Mais passer est diffusé pour être apprécié, ou passer est diffusé pour être critiqué. Voilà le système que nous on veut viser. De Bamako à Boko du Lasso, il faut toucher. De Conakry à Ouagadougou, il faut danser. De Madrid à Paris, on va se faire lancer. Écoute le son mon gars, ça te rend fou. Le hip hop malien évolue de jour en jour. Groupe Small accélère à 100 à l'heure. DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola, DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola, DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola. Chao na febra benta jeka ta nyefe shikana ikofle frade koni kati nterke hegodi sokroni sema kata fo sokrola teriani sidia benta jeko yiriwa malata nga kuda hani denga di dijela bobe karwala neko after mayora di la sabali mo keliko eko ni vato oko ni mandi di la di barsa biete toto fena doni doni debe shibo nga cheshe fana ankana baku mama lomi kuna kati orebe kuma dunwa lame na raputu malame gana iyere lame amerike chopa banu kabane nyakati. DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola, DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola, DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola, DJ Samdo, Usko dans Sky Mani Chao. Ambola. Só de matele, só de matele, só de matele. Télévisé, t'as appris à promettre et à causer. Tu fais des plans sur la comète allée. On y croit, on n'y est jamais allé. On est désolé. Sors de ma télé. Sors de ma télé. Sors de ma télé. Tu dis qu'on est des frères, et tant pis si tu penses le contraire. Tu dis que t'as trouvé le médicament, le bon remède, mais tu dis pas comment. Tu fais des gestes avec les bras. Tu dis qu'un jour le peuple te comprendra, qu'il faut un chef pour montrer le chemin, que le bonheur c'est pour demain. Sors de ma télé. Sors de ma télé. De tes phrases, on la connaît par cœur. On pourrait même, si tu laisses ta place, faire le discours à ta place. Tu dis Afrique, ouais, sur qu'on te coûte. Tu dis Afrique, après tout, qu'est-ce que ça coûte. Tu dis qu'à tout peuple, il faut un guide. Tu dis courage, les caisses sont vides. Sors de ma télé. Sors de ma télé. Sors de ma télé. Tu dis qu'il faut payer les dettes du FMI jusqu'au dernier centime pour être parmi. Tu dis qu'on sera les meilleurs élèves de la classe et qu'il est mort le temps des luttes des classes. Sors de ma télé. Sors de ma télé. Sors de ma télé. Sorry, my. lui era Tiké, già Facoli dal suo album African Revolution, Esci dalla mia televisione. Questo era il brano. 17:24, fra non molto comincia la nostra ultima mezz'ora, in cui con Serena di Africa in Movimento, insomma, parleremo un po', approfondiremo la situazione in Mali, una situazione che appunto ha avuto un'evoluzione, insomma, piuttosto complessa. E allora, intanto, mentre approntiamo, diciamo così, lo studio dal punto di vista tecnico, vi faccio ascoltare quest'altro brano. Loro sono tre ragazzi che vengono da Dakar, si chiamano i Dara G. Dara G significa scuola di vita, l'album e il brano è Babylon. Ma democrate, sur ta démocratie, démon, aristocrate déchu, démocrate déçu. À quoi est-il bon de m'imposer ta grande doctrine? Alors que le manque de bol de riz m'opprime, l'âge de Brooklyn, au crime, les mafieux de Babylone oppriment leur système. Sème, ignorance, fils, haine, ils lavent nos cerveaux, exploitent nos MIFA, prêchent l'hypocratie de la bulle d'État. Ils sont doués pour l'art de la magouille, ils nous dépouillent, se remplissent les fouilles et nous amadouent, leur est grave. Le phénomène est mondain, protège ton mental, Babylone est mesquin. Babylone, oh long, how many years colonization? Babylone, oh long, ne quitte à l'ispa ma nation. Babylone, oh long, ne quitte à l'ispa ma nation. Babylone, oh long, you were wrong, you were wrong, you were wrong, you were. Comme au boomerang, le crime laisse des sillons. Babylone tient les rênes, dirigeant pillon. L'histoire se répète, c'est pas un nouveau thème. On stocke beaucoup de peine dans nos veines et nos gènes. Babylone dicte, Babylone commandite. Génocide politique, je cite et revendique. Les chaînes sont mentales, dans la tête ils s'installent. Ils volent ta confiance, ils volent ta conscience. Protège ton esprit, protège ton mental. Fire burn, Babylone. Babylone, oh long, how many years colonization? Babylone, oh long. Protège ton mental, Babylone est rusé comme un chacal. Combattant du micro, debout et faites face à Babylone. Levez-vous pour les opprimés, nous irons jusqu'au bout. Rebel, contre ta politique, je suis rebel. Passe à tes pièges, faut pas que j'excelle. Toujours dans ma croche, je reste fidèle. Car le cicatrice, tu laisses tes séquelles. Well, pour tous les peuples, je combats Babylone. Pour survivre, la lutte sera longue. Pour survivre, la route sera longue. Babylone, oh long, how many years colonization? Babylone, oh long, ne quitte à l'ispa ma nation. Babylone, oh long, ne quitte à l'ispa ma nation. E allora, loro sono i Dara G, 17:28 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. Ultima mezz'ora di Radio Africa insieme a Serena di Africa in Movimento. Ciao. Eccoti, che ti sentiamo. E allora, e insieme a lei faremo un approfondimento su quello che sta accadendo in Mali, perché appunto la situazione si è evoluta. C'è stata una dichiarazione di indipendenza da parte dell'MLNA, che ha dichiarato indipendente lo stato del, loro lo definiscono, dell'Azawad, una parte nord del Mali che è grande quanto la Francia. Contemporaneamente i golpisti di Bamako hanno, diciamo così, cercato di iniziare a fare un processo di liberalizzazione in qualche maniera, perché è stato nominato un presidente della Repubblica, in cui i poteri naturalmente sono sotto tutela da parte dei militari, e anche un primo ministro che è anche uno spessore, diciamo così, internazionale, perché è uno scienziato. Il presidente è uno scienziato e abbastanza famoso, Diallo, se non sbaglio, e poi il discorso, diciamo così, degli interessi internazionali che ruotano intorno alla questione del Mali, dal ruolo della Francia a quello anche del Burkina, Faso, che è stato, diciamo così, un elemento in questo momento molto importante rispetto alle trattative con la giunta. E poi c'è anche la crisi umanitaria nelle zone occupate dai Tuareg, una crisi umanitaria che ha fatto sì che ci siano centinaia di migliaia di rifugiati, problemi con per quanto riguarda l'approvvigionamento del cibo e la mobilitazione di alcuni settori della società civile di Bamako proprio rispetto appunto a questa questione della crisi umanitaria. Insomma, un po' di carne al fuoco. Sì, abbastanza, diciamo che ogni settimana ci sono nuovi elementi di discussione. E in effetti, come dicevi tu, il nuovo presidente, che è Modibo Diarra, è un astrofisico, uno scienziato di spessore internazionale che ha tra l'altro le sue relazioni prevalentemente negli Stati Uniti, e ha lavorato alla NASA ed è anche manager, ha diretto anzi, è stato manager di Microsoft Africa, insomma una persona che tra l'altro voleva comunque candidarsi alle presidenziali ad aprile, quindi già, diciamo, presente in un qualche modo nella scena politica del Mali, che oltre ad essere appunto sostenuto dalla CEDEAO, dagli Stati Uniti, insomma sicuramente da tutta la comunità internazionale, è anche sostenuto da questo nuovo gruppo che si è formato all'interno del Mali e che si chiama Fronte Unito per la Salvaguardia della Democrazia e dello Stato, che è un gruppo, diciamo, definito gruppo della società civile, che si è formato dopo il colpo di Stato del 22 marzo proprio per, diciamo, reclamare e rivendicare un diritto un ritorno alla legalità. Beh, sicuramente la situazione è molto più complessa, perché tra le forze golpiste e il governo che si è recentemente formato c'è un equilibrio molto labile. Ovviamente, diciamo, la guida legislativa in questo momento è l'accordo che hanno stipulato con la CEDEAO, le forze del Mali, cioè governo, primo ministro e presidente, nonché le forze golpiste, anche se le forze golpiste comunque si ritengono, diciamo, i tutori della transizione, quindi sono sempre molto molto presenti. E tra l'altro, proprio l'altro ieri, se non mi sbaglio, hanno arrestato 22 persone tra comunque esponenti di spicco della società maliana, nonché della politica, moltissimi dei quali vicini all'ex presidente Touré. E tra l'altro, diciamo, l'accusa prevalente è che non hanno ancora fornito delle motivazioni. Le persone sono state arrestate senza un capo d'accusa chiaro. I militari hanno detto che queste persone erano intente a preparare appunto un colpo di Stato, tra l'altro, comunque un rovesciamento dell'ordine. E in questo momento, diciamo, il potere coercitivo è ancora nelle mani dei militari. Certo, una cosa, diciamo così, contraddittoria è che questo colpo di Stato apparentemente è stato fatto perché questi militari ritenevano il comportamento del presidente troppo debole rispetto alla ribellione Tuareg. Mentre invece subito dopo il colpo di Stato, di fatto, la ribellione Tuareg ha conquistato dei capisaldi molto importanti, delle città come Timbuktu, e soprattutto ha proclamato l'indipendenza. Quindi alla fine gli obiettivi proclamati di questo colpo di Stato non sembrano assolutamente che siano raggiunti, e soprattutto si profila una transizione sotto tutela. Beh sì, diciamo che l'attenzione di tutti, a cominciare dall'attenzione della CEDEAO, si è spostata dal conflitto nel nord al colpo di Stato. Cioè e alla fine coloro che hanno portato avanti il colpo di Stato lo hanno fatto, come dici tu, per protestare contro la passività e l'inerzia di un governo che a loro dire non riusciva a risolvere la questione dei Tuareg. Però dall'altra parte loro mettevano in evidenza anche la mancanza di mezzi necessari per svolgere comunque un lavoro, tra virgolette, di appunto repressione della rivolta. Quindi da un certo punto di vista le forze armate non hanno comunque ricevuto grandi aiuti in questo periodo, quindi la situazione è inevitabile che non sia cambiata. Cioè non, alla fine ora la CDAO ha detto che se non si risolverà il conflitto invierà un contingente armato che sarà supportato logisticamente poi dall'Unione Europea e dalla Francia, però in realtà questo contingente non è arrivato e quindi loro sono nell'esatta situazione di due mesi fa praticamente, quindi per loro non è cambiato nulla, però è cambiato molto a livello internazionale, dove invece è appunto africano, dove l'attenzione è stata catalizzata totalmente dal colpo di Stato e quindi cioè dal clamore che questo ha suscitato e dalle proteste che comunque ha suscitato negli altri stati e nella comunità africana. Poi c'è stato anche quest'altro elemento, che il presidente deposto, insomma alla fine è uscito fuori perché non si sapeva dove stesse, ed è stato portato con l'aereo presidenziale in Senegal, a Dakar. Quindi sì, c'è questo legame, diciamo così, fra il vecchio regime e la nuova situazione politica che si è creata dopo le elezioni a Dakar. Sì, sì, è vero, anche se poi credo che il Senegal sia stata una scelta forse contingente, di comodo, cioè di vicinanza, e poi è anche vero che bisogna ricordare che comunque Touré era un personaggio stimato in tutta Africa e quindi credo che comunque se avesse deciso di andare da un'altra parte sarebbe stato comunque accolto, forse non bene in Mauritania o in Niger, ma sicuramente in altri paesi sì, cioè nel senso sicuramente questo avrà adesso delle conseguenze, in un qualche modo verrà comunque considerato come un elemento con cui poi fare i conti, però attualmente diciamo lui è proprio uscito di scena, non ha in questo momento nessun peso, e mentre continuano, come dicevi anche tu poco fa, avere un peso notevole comunque più che i Tuareg, che poi paradossalmente che adesso sì hanno proclamato lo stato della Zawad, però sono anch'essi consapevoli di avere comunque una forza relativa molto limitata. C'è tutta la questione legata comunque a Ansar Dine, che diciamo già si è scontrata con i Tuareg e continua a prendere piede notevolmente, cioè nel nord del paese. Diciamo che anche la liberazione dei 160 militari di qualche giorno fa è emblematica, perché hanno liberato questi militari dicendo che avrebbero poi nel corso dei prossimi giorni liberato anche gli altri in nome dell'Islam. Islam considerato in questo caso, così definito da loro, punto di riferimento comune. Cioè loro adesso hanno cambiato anche tattica, perché nelle zone occupate comunque stanno diciamo cercando di garantire, questo secondo i loro comunicati, la sicurezza della popolazione. Come ti accennavo poco fa, hanno fatto una cosa che fa discutere, cioè loro hanno creato un numero verde a disposizione della popolazione per permettere appunto alle persone di denunciare eventuali abusi o violenze. Poi tra l'altro abusi e violenze effettuati eventualmente dai loro stessi miliziani, quindi questa è una cosa che c'è, insomma, tutto da dire, mentre alla fine Tuareg stanno sempre secondo questa politica tra virgolette di consensi per spiegare la loro causa, per diciamo creare reti di solidarietà tra le persone che sono rimaste tra l'altro a forza, perché probabilmente se ne sarebbero andate anche loro se avessero potuto, stanno distribuendo benzina e magliette. Certo, diciamo, una cosa molto utile in questo momento. La necessità apparentemente in questo momento delle popolazioni del nord del Mali non è sicuramente questa. C'è stata anche da parte di alcuni giovani di Bamako e alcune organizzazioni non governative di Bamako un tentativo di creare un corridoio umanitario in modo da non aspettare l'arrivo eventualmente dei soccorsi istituzionali e poter in qualche maniera dare un sostegno alla popolazione. Ansar Dine ha detto che permetterà l'apertura di corridoi umanitari a patto che gli aiuti non arrivino da Francia e Stati Uniti. Appunto. Quindi in realtà insomma può darsi che a fatica si riuscirà a creare questo tipo di interventi a partire da paesi comunque vicini, confinanti o comunque stati africani. Sì, poi c'è anche un altro aspetto che bisognerà valutare, nel senso la resa dei conti fra il Movimento di Liberazione Nazionale dell'Azawad e Ansar Dine, perché naturalmente le due posizioni non sono coincidenti. La presenza degli islamisti potrebbe anche essere un grimaldello attraverso il quale si potrebbe prefigurare un intervento internazionale stile Libia. Beh sì, che è stato già comunque annunciato, tra virgolette. Sì, ha ragione, anche perché loro hanno rivendicazioni completamente opposte, cioè alla fine Ansar Dine un po' in realtà si prende molto gioco dei Tuareg, nel senso che le ha utilizzati in un primo momento, ma sa benissimo che i Tuareg non hanno la forza e soprattutto sanno che le loro rivendicazioni, quelle Tuareg, non sono appoggiate da nessuno, cioè, o meglio, non sono appoggiate dal governo centrale, che non lo permetterebbe mai, dalla comunità africana, dalla comunità internazionale, ma dagli stessi maliani, cioè, che comunque sì, là poi è da vedere quanti sono a favore e quanti no, ma in realtà la maggior parte della popolazione probabilmente non è a favore comunque di uno Stato indipendente. Quindi loro in realtà, i Tuareg, che poi in realtà hanno cominciato chiedendo prevalentemente un maggiore benessere, quindi anche un maggiore inserimento sociale, lavorativo, culturale, alla fine sono in questo momento in grande difficoltà, anche perché si trovano comunque appunto proprio a fronteggiare e a cercare di contenere quelle che sono invece le rivendicazioni di Ansar Dine e anche l'avanzata sul territorio. Ansar Dine invece vuole un Mali unito, però unito sotto comunque la Sharia, sì. Quindi appunto siamo su piani totalmente diversi, e questo avrà sicuramente un peso notevole, forse anche nella stessa, probabilmente nelle trattative, perché probabilmente i Tuareg, come ha detto l'attuale presidente, cioè con i Tuareg si tratterà, con Ansar Dine non si tratterà, cioè non verranno proprio considerati tra l'altro al tavolo delle trattative. Se ci sarà un tavolo, loro non ci saranno. Certo. Allora, ci prendiamo per il momento una pausa, e loro sono un gruppo musicale che viene dal Senegal, si chiamano i Bide Boubès. Yes, I don't come and explain. We'll live together, unification for a vibe. Wicked, no more dice, so rest for homeless. All the time, y'all go cry, may y'all bless. Je prends pour la cause prolétaire et pour tous les homeless qui crèchent sur terre. Ce que maman me disait, ce que papa me disait. Aide ton prochain fils dans ta poche pour les siens. Ce putain de monde va mal. J'accuse le peuple, il est temps qu'on y mette un bémol. Je viens lâcher mon verbe pour ceux qui n'ont rien, pour ceux qui crèchent sous un pont sans cesse. Des pères comme l'été, ils peinent sans cesse. J'ai rien d'autre part cette chanson. Et de l'espoir dans la voix, de là-haut, Dieu nous guide dans la vie. Lève-toi, bats-toi et ne baisse pas les bras. Je braille, je sais que c'est peine perdue. La vie, je connais, elle rime. Étoile divine du ciel, démon de l'âme, I am. Laisse couler lumière, espoir au fond de leur âme. Et flash, la lumière du vieux. Bis salen bu gis nit bossam dis ay mbokk galer di dewa clip nga gis ni neba du gis mas ñu yan ko gis galam reer gis bepp xetu misère di nga gis nga gis ni nek ci xif fas dem tarxis di sacrifice am bes yalla def mon ko ris ki ris am alal sen dawal me ci topa do auto bu bes des mercedes bu ñu dawal I'm fight again eyes up pour ces gens qu'on aime la route sans abri moi je plais d'ici moi je plais d'ici No, Bidu Bu Bess, loro sono un gruppo che viene dal Senegal, Homeless è il brano. 17:45, questa Radio Africa, voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Qui insieme a Serena di Africa in Movimento stavamo approfondendo la situazione in Mali, e allora ci sono anche altri aspetti di questa, diciamo, questa situazione piuttosto dinamica in questo momento, che riguarda appunto la posizione di certi intellettuali africani, se non sbaglio. Sì, praticamente c'è un gruppo di intellettuali africani. Però devo ammettere la verità, non ho ancora ben capito se la maggior parte di essi si trovano in Europa o in Africa, che ha ideato questo forum per un altro Mali, che è un forum, che praticamente dà un'interpretazione abbastanza diversa rispetto a quella, diciamo, della CDAO o comunque degli stati, dei governi africani, e dice appunto che la situazione del nord è molto vicina all'interpretazione dei golpisti, tra virgolette, e dice la situazione del nord è stata, diciamo, favorita e facilitata dal governo di Touré e comunque dai governi precedenti per interessi prevalentemente occidentali e francesi. Il colpo di stato di Sanogo è stato l'unico modo per evitare di mandare, diciamo, al massacro i giovani militari. E il golpe può essere visto come un modo per riprendere in mano un paese corrotto e con una democrazia, loro la chiamano di plastica, che si sarebbe ripresentata nella stessa identica forma anche dopo le elezioni presidenziali di aprile. E le due principali denunce sono alla CEDEAO e alla comunità internazionale, perché la comunità internazionale è accusata di indifferenza, o meglio, il forum denuncia l'indifferenza della comunità internazionale, che non si è smossa minimamente per il massacro dei militari ad Agelkok, tra l'altro militari la maggior parte disarmati, però è subito, diciamo, si è levata subito per condannare il colpo di Stato. E allo stesso modo anche la CEDAO. La CEDAO ha proclamato l'interventismo duro nei confronti del golpe, che secondo il forum rappresenta comunque sempre questo tipo di interventismo, ma soprattutto la CEDAO rappresenta proprio gli interessi occidentali in Africa, mentre fino a ieri era assente totalmente per quanto riguarda la ribellione del nord, cioè a parte comunicati o prese di posizioni o dichiarazioni non si è comunque molto riscaldata. E il nord, che è conteso comunque per le sue immense ricchezze, perché oro, uranio, petrolio, perché è una, come dicevi tu Giacomo anche nelle altre puntate, è una zona molto importante dal punto di vista del traffico di droga, di armi, di esseri umani, ed è strategico per la Francia. È strategico perché la Francia spera di ottenere dallo stato della Zawad, tra l'altro, spera di ottenere ciò che con Touré non ha mai potuto diciamo ottenere, o meglio, ciò che Touré non gli ha mai voluto accordare, così, diciamo, loro così si esprimono. E in effetti per la Francia il nord del Mali è strategico sia per la base di Tessalit, che è appunto importantissima dal punto di vista economico e militare, e per la lotta all'immigrazione clandestina, nonché insomma, per la lotta contro l'ACMI e contro l'islamismo in generale. Quindi questa è la loro posizione riguardo comunque alla situazione attuale e quelle che sono le loro rivendicazioni o comunque denunce nei confronti degli attori principali della transizione. Sì, c'è anche una ricaduta su questa situazione, per esempio rispetto alle elezioni presidenziali francesi, perché si parla di un Hollande che insomma in qualche maniera potrebbe mettere la parola fine alla Franceafrique, anche se poi su certo. questo... Oddio, poi è da vedere, nel senso che... Non ci credo, insomma. Sì, no, infatti, anche perché poi l'esperienza ci insegna che anche molti dinosauri africani che hanno governato per tanto tempo erano legati mani e piedi agli ambienti anche socialisti, quindi sì, infatti non c'è stata molta differenza. Forse sarebbe meno aggressivo di Sarkozy, insomma, nella sua politica estera. Infatti si dice anche che probabilmente Sarkozy, per riuscire a recuperare la distanza che c'è in questo momento fra Hollande, soprattutto rispetto al secondo turno, potrebbe anche essere tentato a fare un'avventura militare in Africa. Si parla di questa eventualità o anche di un intervento per esempio verso la Siria, però di una posizione un po' più dura. Oddio, sì, la Siria mette in gioco uno scacchiere comunque molto più complesso, però l'intervento della Francia in Africa in questo momento potrebbe essere anche un boomerang per Sarkozy, perché se dovesse andare male, e nella sua ottica ovviamente, questo lo porterebbe proprio alla deriva, che già non è una situazione molto semplice a livello elettorale. E poi diciamo, in fondo, per quanto riguarda quello che dicevi tu relativo alla Françafrique, comunque nell'incontro che c'è stato con Sall ci sono stati nuovi accordi per aiuti allo sviluppo e per la cooperazione militare. Sale, quindi, il nuovo presidente del Senegal. Sì, scusate. In effetti sono passate molte cose, sono passate due o tre settimane, due settimane dall'ultimo aggiornamento sul Senegal, quindi sì, in effetti Sall si è recato in visita ufficiale a Parigi, dove ha stretto nuovi accordi con la Francia. La Francia ha deciso uno stanziamento di 85 miliardi di franchi se fa per aiuti allo sviluppo e cooperazione militare, quindi insomma questo è indicativo che la presenza francese vuole essere, o almeno al momento vuole ancora essere, diciamo, importante, giocare un ruolo insomma preeminente in Africa. Poi è da vedere cosa succederà con Hollande, però insomma attualmente questo è questo, diciamo, queste sono le strategie di Parigi. E comunque io credo che Parigi in questo caso si muoverà dietro le quinte, cioè, probabilmente coordinerà, come è stato già comunque detto, anticipato, un'eventuale missione da parte della CEDEAO, però non credo che si esporrà in prima persona. Poi insomma, anche perché potrebbe il punto diventare rischioso. Sì. La CEDEAO sarebbe la comunità economica degli stati dell'Africa dell'Ovest, sì, che è stata creata nel 1975. La sua missione sarebbe quella di promuovere l'integrazione economica, ma ultimamente è diventata, diciamo, una sorta di braccio militare per quanto riguarda molto frequentemente gli interessi anche delle potenze occidentali nell'area, con diciamo intenti stabilizzatrici quando ci sono state delle crisi in quella zona, ma molto spesso invece si sono trovati direttamente coinvolti anche negli scontri e nelle guerre locali. Sì, diciamo che è stato un organismo di mediazione negli ultimi tempi, non ha, almeno non mi sembra che ci siano stati cambiamenti rilevanti o proposte rilevanti dal punto di vista economico, cioè come poteva essere anche tutta la discussione che comunque si porta avanti in Africa da tantissimo tempo, dell'abolizione del franco CFA, della creazione di una moneta africana magari unica per la zona dell'Africa occidentale. Però in ogni caso questo tema ormai al momento non se ne parla. Sarà che le emergenze o le priorità sono altre, però è così, come è un organismo di tamponamento delle crisi e delle emergenze dei vari paesi. Però mi manca una voce in questo quadro, in realtà a me manca la voce dell'Unione Africana. Sì, sostanzialmente è stata silente. Non ho letto un comunicato, una dichiarazione, sì, una posizione, cioè è completamente assente, silenziosa. È completamente assente, e poi questo dimostra anche, diciamo così, come questo organismo sostanzialmente sia stia diventando pleonastico, nel senso che non ha nessun peso in queste dinamiche che ci sono in queste crisi, soprattutto anche perché poi gli è venuto a mancare anche l'appoggio della Libia, di Gheddafi. Certo, che sì, che era sicuramente il sostenitore. Era uno degli sponsor maggiori, sì. Insomma. E un altro aspetto che mi fa pensare è come questa crisi del Mali in fin dei conti sia stata anche per certi versi un'onda lunga della crisi libica, dell'intervento. Ha molte relazioni con la crisi anche libica, perché appunto come abbiamo cercato anche di mettere in un qualche modo in evidenza. Sì, e molti Tuareg appunto erano, combattevano con Gheddafi, sono tornati in Mali con armi, è effettivamente un effetto collaterale, del spostamento degli equilibri nel Nord Africa. Sì, assolutamente. Infatti è indicativo il fatto che alla fine, negli ultimi tempi e nelle ultime vicende geopolitiche africane, l'organismo che si pronuncia è un organismo comunque di interesse economico, no? Formato comunque da lobby economiche africane e occidentali, perché poi di fondo c'è una grande componente, ma soprattutto una grande influenza da parte di quelli che sono, i grandi capitalisti o i grandi poteri occidentali. E non c'è l'Unione Africana, che ha dimostrato appunto in realtà di non avere nessun, come dicevi tu, peso, e lo ha dimostrato nel Nord Africa, l'ha dimostrato in Senegal, dove qualcosa, poteva, anche poi non è successo niente di grave, però è completamente sparita dalla scena. Sì, infatti non si sente più. Allora, un altro stacco musicale e poi continuiamo. On me donne, on me carotte, on me maltraite. Me voilà rempli de dettes, débiteur, jamais créditeur. Est-ce que je m'en sortirai? Bisson à bisson, parle pour les endettés. J'ai le notaire sur nos têtes et nos terres. Les chaînes mixées à l'espoir, ça revient trop cher. Le fouet arrache la fierté des lambeaux de chair. Amour à déserter, navigue à fond de cale, alerte et haine. Prend les armes et notre histoire aggrave son cas. Ta liberté, combien de frères sous les balles endettés? Aussi vrai que l'enfer il brûle sous mes pas. M'en voulais pas, j'ai pété le câble, remis le compteur à zéro. Pose un bouquet de rimes sur la tombe de nos héros. Tu veux relever la tête, mais ton compte est à zéro. Tu veux avoir tous les rôles, jamais celui du héros. Tu as la mer et tant de plaques pétrolières. De plus tu manies mieux que la langue de Molière. T'as le café, le cacao, des sportifs à gogo. Des intellectuels, basanés ou bien négros. C'est grâce à eux et tu leur dois tout. Pendant des siècles tu verras tant qu'il y aura des hommes et des fous. J'avance toujours fier, fort et entêté. On était le bon peuple à raqueter, à têter jusqu'à l'os, sans arrêter, endetté. C'est leurs âmes qui le disent, n'élève pas trop la voix, ou c'est toi qu'elle vise, maltraité. Habitué à souffrir, on a appris à sourire malgré la guerre et la pauvreté. Hey, trop de soucis, hey. Chaque jour on bosse dur pour remonter la pente, mais trop de soucis, hey. Encore combien de temps, le moral à zéro, pas paquet de dettes et une vie en sursis. Le manque de moyens nous pousse au fond du gouffre. On pense qu'on devrait s'échapper loin d'ici. J'ai le notaire sur nos têtes et nos terres. Qu'en est-il de toutes ces richesses? Change nos sols et pourrait rembourser ses dettes. L'Europe a agressé, dépouillé, violé l'Afrique. Bissot revendique le continent de la retraite. Esclave de naissance par la force du fouet. Dans la misère, je prône la justice. Nos rois ont tout dealé dans l'histoire truquée qu'on a appris. Mais le crime humanitaire, la traite des nègres a un prix. Culpabiliser le cas, fin d'œil sous fausse vérité. Ils ont une dette pour les leaders, figuillés pour qu'ils le paient. J'ai le notaire sur nos têtes et nos terres. Ta ta ta ta ta ta ta. da peso vale di bango. E allora 17:59, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. E allora stavamo con Serena, insomma, valutando un po' la situazione in Mali, ma la situazione del Mali è strettamente connessa anche con la situazione politica e sociale di tutta l'area, in particolare anche con ciò che è accaduto in Senegal. Eh sì, diciamo che ormai in Senegal il mandato di Sall è entrato, insomma, nel vivo, e Sall ha cominciato a portare avanti alcune delle sue, diciamo, promesse elettorali. Una delle prime notizie è che ha annunciato e ha effettivamente attuato la diminuzione del costo di tre prodotti, riso, zucchero e olio, che erano i tre prodotti che, sui quali, insomma, aveva promesso l'abbassamento dei prezzi, senza però ricorrere ai sussidi. Allora, ho visto che il riso è passato da 325 se fa a 2,80, lo zucchero da 690 se fa a 580 e l'olio da 1,200 a 960. Questo sembrano particolari, insomma, non significativi, mentre invece questo poi è riferito a un chilo di riso, a un chilo di zucchero, a un litro di olio, cioè comunque sono diminuzioni notevoli. E soprattutto la popolazione comunque sembra essere abbastanza contenta, anche perché questi abbassamenti sono avvenuti, come dicevo, senza sussidi. Sussidi che l'ultima volta che sono stati, diciamo, utilizzati hanno causato poi un buco di 150 miliardi di franchi CFA nelle finanze dello Stato, perché ovviamente poi i sussidi sono un'arma a doppio taglio, cioè che rappresentano poi una falsa soluzione. Certo, ci sono poi alcune voci che, insomma, tutti sono contenti della diminuzione dei prezzi, poi bisognerà vedere, cioè, anche di attuare una politica agricola di produzione, cioè, in Senegal, che sia, cioè, di lungo periodo, perché ovviamente la risoluzione di molti problemi potrebbe passare anche dal rafforzamento e dalla riorganizzazione delle produzioni locali, che al momento comunque sono messe a dura prova, soprattutto il riso che poi è un prodotto che ha un andamento molto altalenante sul mercato internazionale, perché è molto legato comunque alle produzioni stagionarie e appunto legate ai cicli di raccolta, e i paesi che lo esportano di solito gli scambi sono sempre molto ridotti e molto eterogenei, comunque è un prodotto abbastanza complesso. Sì, poi c'è anche il discorso che molto spesso le produzioni che vengono dai paesi occidentali sono sostenute e quindi finanziate, certo. E naturalmente c'è una sorta di concorrenza, un dumping, diciamo così, economico rispetto alle produzioni locali, e a questo si inserisce anche il discorso della speculazione finanziaria che fa delle commodities, come sono appunto quelle degli alimentari, uno strumento di speculazione, e quindi aumenta naturalmente anche i costi. Certo, poi è vero, come dicevi tu, tra l'altro i paesi che importano il riso, tra l'altro molti di questi mirano proprio all'autosufficienza alimentare, quindi in realtà il riso sicuramente è un prodotto difficile. In questo momento la situazione sul mercato internazionale per il riso è abbastanza è favorevole, diciamo, sarà anche la stagione favorevole, però ecco, da questo punto di vista una delle promesse di Sall è stata, diciamo, è stata realizzata. Però Sallo adesso dovrà, diciamo, fare i conti, questo è un problema, diciamo, imminente, con la questione delle legislative, che in realtà hanno creato un sacco di subbugli anche all'interno del partito di Wade. Non se ne è parlato molto, però anche il partito di Wade, o almeno una parte del partito di Wade, ha contestato la decisione e la conformazione delle liste elettorali per le legislative. E quindi si è distaccata formando un gruppo che si chiama Bok Gis Gis, che vuol dire, diciamo, avere la stessa visione, a cui hanno aderito molti esponenti vicini a Wade, ma anche e soprattutto personalità di spicco, l'ex presidente del Senato, l'ex presidente dell'Assemblea Nazionale, cioè comunque tutte persone che hanno deciso di concorrere da soli. anche perché si aspettavano che Wade, dopo la cocente sconfitta, uscisse un po' di scena. Invece Wade assolutamente non ci pensa minimamente, quindi continuerà a guidare comunque il partito. Mentre per quanto riguarda la coalizione di Sal, probabilmente si è deciso che ci sarà una lista comune che è stabilita sulla base di un coefficiente elettorale relativo ai partiti e alle coalizioni che hanno, diciamo, poi sostenuto Sala alle presidenziali. E questo coefficiente elettorale si calcolerà proprio sulla base dei voti del primo turno delle presidenziali. E quindi diciamo che alla fine concorrerebbero uniti, ma poi alla fine saprebbero già come spartirsi, tra virgolette, i deputati. Certo. Loro sembrano aver trovato un equilibrio, poi ovviamente ci sono anche, diciamo, rappresentanze o piccoli partiti che concorreranno da soli o che almeno al momento hanno paventato quest'idea. Le liste non sono state ancora, diciamo, presentate tutte, perché il termine ultimo è stato rinviato il 30 aprile ed infatti le legislative sono state spostate da metà giugno comunque al 1 luglio. Questa è una lotta che, diciamo, ha riveste un'importanza notevole per Sal, cioè per il suo governo. Sì, poi una ridefinizione, diciamo così, del campo del politico all'interno della situazione senegalese era anche inevitabile, perché effettivamente sia Wad che Sal, diciamo così, provengono dallo stesso ceppo politico, hanno lavorato insieme, quindi non è escluso che molti notabili locali non abbiano nessun problema a spostarsi, insomma, sul carro del vincitore. Una cosa che Sal ha fatto è quella di premiare quelle forze politiche o quei rappresentanti politici come Youssou N'Dour, che non sono stati ammessi alle elezioni ma lo hanno appoggiato. Youssou N'Dour è il nuovo ministro della cultura del Senegal, il che dà lustro naturalmente al governo di Macky Sall, e poi naturalmente dovrà essere valutato, diciamo così, sugli aspetti concreti, però sicuramente, insomma, è un aspetto di novità anche, insomma, in genere per l'Africa, insomma, non è, mi sembra che sia una delle prime volte che un rappresentante abbia un ruolo così importante. Sì, e allora sono le 18:06, questa è ancora Radio Africa, ancora uno stacco musicale. L'étoile de Dakar, aïe, on y va. Mbala, style, Yassa, style. Sénégal, c'est trop mer, le nom le plus connu, c'est le Jai. La culture, une manière de vivre et d'exister. Un jour, l'Afrique fera danser le monde entier. Profiter du peu qu'on nous a donné. Quand on veut, on peut l'espoir, à le coup sucré. Rappelle-toi, 2002, le lion mange le coq. 1-0, le Sénégal bat les champions du monde. Sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Quello che ci siamo ascoltati era proprio Youssou N'Dour insieme a Mokobé in questo brano Profité. E allora 18.10, si avvia alla conclusione questa puntata di Radio Africa per questo sabato. E insieme a Serena stavamo facendo insomma una sorta di scaletta degli argomenti che ci piacerebbe affrontare nelle prossime puntate, nella nostra mezz'ora insomma così di confronto sulle questioni africane e situazioni e temi dei più vari, soprattutto per quanto riguarda, che molto spesso vengono addirittura superate dall'attualità. Diciamo che in questo momento una delle situazioni diciamo così più brucianti è quello che sta accadendo in Guinea-Bissau, dove c'è stato il quarto colpo di Stato, una situazione complessa che vede diciamo così una divisione etnica soprattutto e che però va in qualche maniera focalizzata anche rispetto diciamo così al passato, e cioè le lotte di indipendenza, il ruolo del partito del PAIGC di Amilcar Cabral, della differenza fra i capoverdiani e l'etnia diciamo così che stanziale in Guinea, è inserito in un contesto poi di attenzione rispetto al Golfo di Guinea, poiché appunto lì sono stati trovati dei giacimenti offshore di petrolio che sostanzialmente stanno destabilizzando insomma, certo, la zona. Un altro aspetto insomma che ci tenevamo anche insomma a definire, insomma a informarvi, del post elezioni in Congo, dove dopo la vittoria di Kabila, una vittoria contestata, insomma la situazione non si è assolutamente normalizzata. Le difficoltà di Kabila dopo la morte del suo consigliere in un oscuro incidente aereo, insomma, hanno portato, se possibile, ancora di più elementi di confusione. Poi c'è la situazione del Sudan, certo, cioè la guerra che è in corso insomma tra il nord e il sud del paese, ovvero fra i due stati, perché almeno dovrebbero essere ormai due stati infatti indipendenti. Una guerra che già c'era da prima, che sta continuando, anche se poi nella realtà dei fatti il Sud Sudan è diventato appunto uno stato indipendente, alla faccia di quello che l'Unione Africana aveva sempre difeso, e cioè il fatto che le frontiere tracciate dai colonialisti dovessero essere assolutamente non modificabili, che ciò è accaduto, infatti, quindi c'è un'eccezione. Anche se in realtà ciò è accaduto con i peggiori presagi, nel senso che tutti pensavano che non durasse o che comunque fosse solo una soluzione apparente e temporanea, e oddio, cioè al momento in realtà non riesco neanche a immaginare quale potrà essere la soluzione, cioè se una nuova ricomposizione dei confini territoriali oppure una infinita guerra tra i due stati, che potrebbe essere insomma anche un'altra ipotesi, perché non sarà una situazione risolvibile in poco tempo quella del Sudan. Certo, poi anche si inseriscono attori internazionali considerando le immense risorse petrolifere della zona, soprattutto per quello. Figuriamoci. E un altro aspetto, insomma, che speriamo di riuscire in qualche maniera a focalizzare è anche quello che sta accadendo in Somalia, al sud della Somalia, al confine con il Kenya, dove ci sono appunto le forze armate keniote che sono ormai interessate in combattimenti contro i cosiddetti Shebab, e quindi insomma una situazione complessa che ha tutta una serie di ricadute sull'area, ricadute che riguardano anche insomma il percorso della Somalia, nel senso che è diventata un non stato, e quindi insomma un'esperienza di disgregazione, di implosione di uno stato sovrano, con tutte le caratteristiche particolari che può avere uno Stato che esce dal colonialismo e comunque con delle infrastrutture molto deboli, però sicuramente è stato proprio un caso di disgregazione totale dell'infrastruttura statale, e quindi potrebbe essere anche interessante affrontarlo da questo punto. Poi quando magari tutto questo sarà finito, cioè ovvero non ci credo, però magari quando riusciremo a finire di parlare di questi argomenti si potrebbe anche affrontare la situazione di altri paesi che apparentemente non hanno grandi problemi, nel senso ci sono quei paesi sconosciuti dell'Africa subsahariana di cui non si parla mai, che sono ad esempio la Liberia, cioè nessuno sa in che condizione si trova attualmente. Ci sarà una sentenza per il processo Taylor, che magari quella potrebbe essere anche uno spunto interessante per poter ricordare insomma questa figura, sì, di Taylor, insomma quello che è successo durante la guerra civile in Liberia, insomma con la Sierra Leone, che ne so, tantissimi altri, Mauritania, Chad, cioè luoghi e stati di cui non si parla mai. E poi magari anche seguire la questione del Kenya e della scoperta dei nuovi giacimenti petroliferi, perché quella sarà una cosa molto interessante, cioè preoccupante, perché comunque sono già molte le preoccupazioni che si sono sollevate, cioè, da parte dei kenyoti stessi, sempre relativamente appunto a una distruzione ambientale e territoriale che possa ricordare in un qualche modo quella che ormai si è consumata in Nigeria. Quindi sì, insomma, gli argomenti sarebbero tanti da affrontare. Sì, noi con le nostre insomma limitate forze ci proviamo a darvi insomma in questa mezz'ora di Radio Africa un minimo di informazione e di analisi su quello che appunto sta accadendo in Africa. Allora sono le 18:16, in attesa di Soul Peanuts, intanto Radio Africa e Serena vi salutano, vi lascio in compagnia di questo brano, lui si chiama Awadi e il brano è Roots. You can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself. You can't hate Africa and not hate yourself. C'est ta couleur ou bien le teint, dis-moi pourquoi t'as honte. Et tes cheveux, tu joues les blondes. C'est comme ce footballeur sur le terrain, sa coupe blonde. J'ai vu les sœurs changer de peau, du noir au vire au jaune avec des taches sur la peau. Le truc est sale, en plus ça pue. C'est comme Michael, à moins que ça tu trouves ça beau. C'est ta nature, vilaine caricature. Le ridicule ne t'atteint plus, il en devient seconde nature. Papa c'est pas beau, tu sais pas mais c'est pas beau. Tu suis comme tout le monde dans le troupeau, pourtant c'est pas beau. C'est mes frères, tu le sais, tu le sais, je le sais, mais moi je vais pas le taire. Ce négro, mon pif est gros, tu m'appelles.